Se riesci a sentire Pierpaolo, ci sentiamo sul 40, perché io in macchina il calamialtico ce l'ho con quello piccolino. Io me ne vado sul 40. Come sono lì vicino a casa tua, ti dico di scendere qualche. Sul 40 passo allora, vai. A vedi se riesci anche a beccare Pierpaolo, così ci sentiamo lì. Attento, vedi la si va gonfiando. Ok, io sto chiudendo e sto uscendo adesso di casa. E allora mi tengo pronto io. Tieni pronto. Se riesci a beccare bene passi sul 40. Se non lo senti fra 5 minuti, passateli sul 40 lo stesso, vai. Mi chiami tu allora, dai. Positivo, ok, dai, adesso provo a chiamarlo. Ha detto, vedi se mi vai copiando? Sì, io qua sono. Ascolta, ha detto Giuseppe, a passare sul canale 40, che lui i canali altri non ce li ha. Fra poco, dai. Passa sul 40, così ci sentiamo dal 40. Sì, io, va bene. Ma... Attenzione sul 40, caffa. Non ho il telefono. Giuseppe. Avanti, falsi. Ti ha risposto Vela. Capa di positivo, dai. Almeno ci sentiamo qua, dai. Perché io su a casa ho chiuso. Pagappa, dai. Quando si nelle mie coordinate fai chiamata. Capa di positivo, ma che non si fa problema. Ma riprendi del pa. E chi è? Attenzione, caraba! Avanti Antonio Pombo nelle coordinate di Giuseppe, cappa! Ma dove sei Giuseppe? In PM in questo momento intanto via Grazia Deletta, cappa! Sente la differenza da casa alla vettura, sì. Nelle coordinate di via Grazia Deletta. Cappa, coordinate via Grazia Deletta di fronte alla chiesa del Cuore Immacolato, cappa. Chi c'è? Cappa, avanti pacchetto per bombolo. Cappa, mi stavo preparando mettendo le pepette, un attimo, poi la riprendo subito. Avanti Bombo! Registrato! Chi c'è qui vicino alla chiesa del Cuore Immacolato? Non riesco a capirti, l'amico mio. Dimmi, Alto, tu riesci a tirarlo fuori? Dove sei tu? Mi hai registrato? No, negativo. Chi è che mi ha registrato? Lo so. Avanti l'amico che registra le conversazioni, cappa. Sappiate che è vietato registrare le conversazioni, è vietato, Cappa di positivo. Procediamo con le malette. Cappa. Che registrare le conversazioni, cappa. Che registrare le conversazioni, cappa. Così, tutti e due schierati siamo, Cappa di positivo. Che registrare le conversazioni, cappa. Era la mia modulazione, che bella voce sì che ho, vero Giuseppe? Questo è dove è finita una persona. E gare che tu manco che fa vedendi. Succhia, succhia, cappa. Che ci sono le conversazioni, cappa. Su, su, strano però, A meno che non sia nelle nostre coordinate, sia fuori Sassari. Cosa volete che vi dica? Io non lo so. Ma sei arrivato, Giuseppe? Sono qui in Via Oriani adesso, fai Giuseppe. Giuseppe. Sì, avanti, avanti. Cari, sul 5. Vai a dire qualcosa. Sì, adesso vado a recuperarlo sul 5. Narrami, Giuseppe. Pappa, siamo qui sulle 40, c'è Falchetto e anche il Buon Vela. Non so se hai sentito che gli è successo, Pappa. No, negativo. E K di positivo, vai, avanti Pierpaolo. Anni. Ehi, cosa gli è successo? Niente, Pierpaolo è uscito dall'ospedale, non lo so, saranno fatte le 2:30, 3:15, presumo. Cosa è avuto, incidente? Cappa sul lavoro, gli è caduta una catastrofa di bombole e sopra ed è successo tutto un casino. Come sta adesso? Ma adesso è a casa e dice che è tutto attento e niente, il lunedì gli dovrebbero fare, gli hanno ordinato una PAC. Non gli manca mai. E come ho fatto a cadere? Ha tolto una bombola e gli sono fatti dati così? Ma penso di nuovo, l'ha fatto capito io, ha ceduto una trave da su, ma lui non ha toccato niente. E quindi è messo male? Insomma, non è che stia tanto bene, ma ci dovrebbe essere comunque qui, perché c'era anche Antonio. Pierpaolo, ci sei sul 40, K? Ma che? Dimmi. Ma è vera? È vera, ti ha detto che era sul 5 Gianni, poi non so dove è vera. Prova a rilanciarlo. Capo, infatti io sono andato a recuperare Gianni per portarlo qui sul 40, mannaggia. Sentivo, salutoni comunque Gianni. Ciao Falchetto, buonasera. Ah, mi dispiace per Pierpaolo. Ogni tanto viene una. Ah, noi ti stavamo cercando in lungo e largo, Gianni, mannaggia. Comunque, qualche scendi. Ma sto scendendo. Pappa. Pappa, Capparocci. Ciao già, ci sentiamo dalla macchina. E dove state andando di bello? Lo sto accompagnando su da Antonello perché ha dei problemi con il paratino, Cappa. Stasera non facciamo niente. E io è quello che ti stavo cercando anche per quello, cioè riuscire a sapere qualcosa, Cappa. Per me si può fare qualcosa lo stesso, se Pierpaolo se ne assente, non lo so, io non so come ci ha messo. E infatti io a Pierpaolo gli ho detto a costo di venire a prenderti io in braccio, ma insomma piano piano poi non lo so già, vediamo un po' se rientra adesso. E poi gli assolizzini di Bombo, Bombo. Capo, ma quanto mi ha detto ha buttato giù un muro e ha distrutto anche due macchine che c'erano lì dietro. Ma dove sono scese? Ma quanto ho sentito io da un coso altro e una catasta piramide, Gianni. Non è adesso, ma magari dopo andare così, perché non è adesso a fare queste cose. Tante volte si può eludiavolo di me. Risponde Pierpaolo. Ma io non l'ho sentito, Gianni. Proviamo a fare un salto sul 5 che non sia lì. E là vado a fare una telefonata. Giuseppe, se vuoi andare stasera possiamo andare lo stesso, dai, per fare qualcosa. Il sabato almeno, dai. Cappa, io non ho problema, aspetta un secondo, ti passo Falchetto, ma penso che non ci siano problemi nemmeno da parte sua. Sì, hai. Vabbè, che telefonata devi fare? Pier Paolo, a vedere come sta. Ah, è KK, va bene. Entra su 40, dite a Pier Paolo, a Vela. Cosa? Vela, entrare su 40, li dici. Ora, Franchetto. Dimmi Vela. Ah, io che si cattiva sono la 35, voi siete qua, sto aspettando, boh. K. Allora ci siamo capiti, Vela, dai. Faceva un salto a chiamare a Gianni W e poi si risaliva sul 40. perché giustamente è il minimo che possa fare, dai, per il buon falchetto, dargli uno strappo, perché farlo salire in moto non, ti giuro che non me la sentivo, dai, perché con questo freddo poi magari gli si raffreddano le ali e niente, e stasera ogni amuso strano a fianco alla macchina, ma contro di noi verani oggi. E niente, farlo salire in moto non me la sentivo, perché poi mi si raffredda e magari non viene a mangiare la pizza stasera. Va bene, dai. Cava. Andate dal Bonaricio. Dite di non usare il nastro rosso. Cappa, però sempre che ci sia mi ho già, perché noi adesso stiamo salendo e lui non c'era oggi a Sassari, era in Campogna. In Campogna? Bello, fuori in Campogna. Ah, adesso vediamo, ne ributtiamo giù la porta e ce la facciamo noi, le saldature, cosa vuoi che ti dica? Voglio vedere se è tutto a posto lì, dai. Sì, adesso io sono girando tutto quanto a destra, vediamo un pochino, mi auguro che ci sia, perché anch'io sono un pochino in fretta, perché ho lasciato Lella e la bambina a casa, e gli ho detto non ti preoccupare, 10 minuti, un quarto d'ora e sono a casa. Ciao, va allora. Allora fai veloce, se no poi ti attende col mattarello. Avanti Pierpaolo. Sì, ma devo andare, è stato diabetico per avere tutta la documentazione, le visite che mi hanno fatto, la spirometria, il coso, le cose della diabete, la visita degli occhi, l'ecocardiogramma, la visita al torace. Domani glieli dovrò portare. Dovrò perdere un attimo di tempo per vedere come funge. Ma quindi una cosa, ma la liquidazione della salina Fatibera l'hanno già data? L'ho già liquidato? Liquidati, spesi, in cacca, se non ripendere un 90 settimi, sono i 2010, sono già passati 3 anni. 2007? E allora? Cazzo, di già 3 anni sono passati. Vabbè, praticamente, allora, quando io ho preso il mio